telefonato. Camita, sì, domani. La partita mi sa mai venne. La partita anche domani. Ciao Lu, comunque, buonasera. Ciao domani. Ciao, ciao Lu, ci sentiamo, vai. Mi sto guardando la partita. Io sono le campagne, ciao domani. Ciao Lu, ci sentiamo, dai, buon proseguimento. Hola, hola, canale 23. Attenzione, Gian Maria. Bitto, buonasera. Buonasera, che è la città che ci dobbiamo far sentire. Ehi, sto ascoltando da parecchio, È stato anche Luca del Monte. Infatti, adesso sto guardando la partita e dice io sto scendendo in campagna. Però io l'ho lasciato acceso, capito? Si fa dove? Hai fatto bene, il sabato è triste. Non è così triste, dai. Non è così triste, basta a pensarci. Bisogna sempre allegri, bisogna stare. Allegri a fare di là. Fino a tutti. Ma da un po' guia. Ah, dovrebbe entrare il Bacchigio e Marino a fare dei controlli. Bacchigio ancora sarà in campagna. Magari Marino sarà preparando. Ehi, ancora è preso, c'è 10 appena. Perché entreranno per fare i controlli. Allora ti ha fatto tutto Marino. Così mi ha detto. Stava piazzando tutto quanto e poi entrava per chiedere i controlli. Allora già lo sentiamo. Allora già lo sentiamo. Noi stiamo uscendo sempre bene, siamo tranquilli, no? Stavassi. Per adesso sì. Non c'è che per noi non ci sono sempre problemi, dai. Già siamo vicini, sì. Per imporci 4 watt, sì, se no da buio. Se mancano i 4 watt è meglio ando a coglio. Se ne do con poco. Più di 4 watt al tuo lato. E chi dà ragione. Mi manco un po' sì, ma di più no. Sì, vabbè. Se no ando con un coso, zecco. Un mezzo di giamani, uno dei segogli. Si sa accendere. Fazzerugi. Va bene tu. E beh, cosa hai combinato oggi? Tutta che nuda. Se ci hai combinato a rimane, e se mangiare hai combinato la gira. Vabbè. Meglio così. Almeno fino all'altro ti sei riposato. Sì, ma l'anima di riposarmi. Sto facendo die così. Ti abbiamo lavorato troppo prima, così che adesso ci dobbiamo riposare, no? Infatti. Adesso ci riposiamo, lasciamo ai giovani. I giovani mi sembra non ne abbiano nemmeno voglia loro. Hanno voglia solo di raccussione. Sì. Siamo da loro, speriamo che entrino a lavorare. La sombra dipende, tutti la sombra dipende tu. L'importante, sai cos'è? L'importante è che a loro ricorrono lo stipendio ogni mese dopo. Per gli altri se ne fregano. Rimane a 4 galassie a faccia duia. Sì. Speriamo che non l'andiamo di traverso, che hanno insomma niente. Ma lì non devo entrare a fila, c'è a chi si mangia il troppo. E noi vorremmo sempre morire di fame. Loro sono fatti così, sono fatti. Pensano per loro, per gli altri non si pensano. Ma speriamo che se gli bisogna si pensano a fare qualche cosa. Ma l'intenzione sembra buona, però se glielo lasciano fare anche. Infatti, se glielo lasciano fare l'intenzione già è buona. Sai com'è? Quando uno, qualcuno si ha cominciato a fare cose buone, allora se qualcuno si mette fra le ruote e non te lo lascia fare, quello è. Ma chi vuole tutto è di. Sì. Quando uno di tutti basta fare le dighe da manita, quando esce il dorà a buttarli non ributti, e non entrano in più. E intanto siamo sempre allo stesso punto, o voti, se non voti rimangono loro sempre, tu. Sì, vabbè, non ci rimangono loro per vita. Se non, fanno, se noi non facciamo qualcosa, ecco cos'è. Cosa facciamo fare noi? Una volta armiamo e partiamo e già sono andati, ma vanno a andare nessuno. Infatti, ma vanno a andare nessuno, però siamo noi sempre che dobbiamo buttarli. Se noi mettiamo il voto diverso, loro non passano. Quello è vero. Però, per carità, voi fate la legge, trovate l'inganno e siamo sempre lì. E chi ce li ha, ce li ha. L'importante è che ti rimanga ancora Giarulli, a voi vedete se ne ha fatti il mondo. Quella è la cosa più importante allora, capito? Ma è la salute, non vai in bagna e muori prima di l'ora. Sì. E buttate che mi sono andati e noi rimaniamo sempre in chiesa. Hai ragione, per carità, cattoria. Siamo fatti, siamo fatti la bella vita, siamo tendiati in forza, tanto chi ha ragione. Tutti promettono, dai, fare la poltrona, beh, ciao, vi, state bene. Sì, vabbè, noi siamo da mani da venire. Per carità. Oggi sarà un ciambotto in coso su 45 lì. E su, fino a due da Sassari e da pura fino alla Rosina. No, ho acceso 5 minuti quello lì e poi l'ho spento. C'era Vulcano, poi c'era Massimiliano, poi da fuori ce n'erano anche, beh dai. Un mezzo bongo, dopo sentiva Vulcano, non sentiva nessun altro, ha detto ma Vulcano, ma solo sta parlando, oh baby. E lo so sempre che stanno facendo sempre gli ex, che stanno facendo. Con lecca lecca maretta, devo fare i buttelli. Sì, sempre escono così. E papà senti di lavora, che arrivi in voce. Almeno alla manco da Matteo tempo e di burro, dai. Avvio. Grazie Bonifà, che fa di là, alla manco e di burro, a Matteo tempo. Vabbè, ogni tanto qualche dietro si buffa. Come no? A voglia. Però niente cartolina, niente QSL però, Ormai sono finiti i sindetti di QSL. Andiamo bene, andiamo. Andiamo così, c'è il rientro della partita, c'è. No, la partita alle 8 la partita, ha finito poc'anzi le cose, ma adesso mi lamento con te, mi pare ai giapponesi, chissà qua, mi pare, e cose, ci picchia, è Messico, 2-1. E c'è la Messico, Corea del Sud. 2-1. prima del fine, meno male, sono riuscito a fare una rete, cazzo, a Corea. Adesso a volte ci dovrebbe essere la Germania con l'Inghilterra. O Germania-Svizzera, chi si sta in appaduto a noi? Ah, la Svizzera, vabbè, a palla e tonda. Inoltre vizi in Italia giù, ora non vizi mai. Sì, vabbè. Ah, ma per un po' vedere la Germania, per un po' vedere. Raccomanda. La palla è tonda, Certe volte. Certe volte noi crediamo in una cosa e invece è tutta diversa. Mica è migliore, io no. Parte né alla Germania né alla Svizzera. Sì, vabbè, anche io faccio parte di tutte e due, anche il gioco italiano, però sei più forte vinci. Ci sono di fortuna, e la ragione. Certo che a far fuori all'Italia, gatto, non ci voleva, però alla prossima. Sì, fra due anni vi sarà europei. Chissà dove l'ha fatto. Ah, io non lo gioco. Non lo so, non lo ricordo dove era. Grazie, si pensava che quest'anno era in Italia, invece cazzo, invece no, niente da fare in Italia. Meglio qui sia, che se no mi voglio andare troppo di Napoli, appoggio tutto. Sì, già ne spendi, però ne acquisti dopo. Vabbè, però per il momento, guarda, l'ho finito, vi ho detto, abbassate il busotto, cazzo, sino alla metà del busotto ancora, capito? Se vuoi immaginare, io non conosco il macaco tra le strade, però mai ci cose gli hanno le gambe di là. Infatti. Noi non avevamo peggio di Garrelli in altri luoghi, ma ne mi sono dato a via l'Italia, che era più importante, era. Per quando ci sono strade che fanno pietà, fanno. Ehi, perché stai a Roma, è tutto biondo sotto, è tutto biondo sotto, se vuoi immaginare, cazzo, esce una buca, non vienami, e si passa da altro luogo. Perché ci hanno già consegni, quando piove l'acqua va a finire, filtra e va via la terra, va via, ecco cos'è. Lì lo vedi, non la baidani, quando stiamo facendo il terrapiano deve venire puni. Ma è tutto vuoto sotto, gatto. Ci sono punti un bel vio diviso, anche delle gallerie che avevamo fatto anche in tempi di guerra, eccetera, capito? L'acqua lavora, prima o poi per forza questo buco vengo a uscire la galla, capito? Se lo so, purtroppo piano piano bisogna fare di quella maniera, bisogna fare. Stava di questa maniera, quando devi venire a toppa, se lo vuoi a neve, no, a cosa, a mano, ogni volta che apri, sono sempre duro, riso. Riccio, per invece chi c'è, da appezzare la cosa, ma poi essere dritta la strada, invece, la toppa, così, dopo i due di, se un fosse umano, gatto, e ti faccio la macchina. Oggi visto, quando a Brenino, che vicino, cari dai, un pezzo in labbri e un pezzo in fasciato venne. Io metto a fare delle lacci lunghe, per carità, ma cos'è che andava bene? L'acqua sono venuta che andava bene, tutto male. A cosa, il ha ragione. Vediamo un po' se è rientrato Marino. C'è propagazione, basta. Infatti, intendi, c'ho segnale, ma arrivi a 8 nubi. Prova a mettere la portata, a voi? Mette la portata senza parlare. No, per 30, dai, 32, 33. Vabbè, già va bene, perché siamo vicini. Già vedete quando arriviamo pure, come arriviamo? Beh, se c'è la propagazione buona, può arrivare anche, cazzo, nella guai, cazzo, con segnale buono, capito? Come arrivano bene loro, possiamo arrivare anche bene noi, anche con 4 watt a voglia. La propagazione buona ci deve essere, capito? Infatti, quando c'è propagazione buona, arrivano loro e arriviamo noi, da loro. Ma oggi ce n'è parecchio, stasera ce n'è parecchio, stavo sempre ascoltando, però non sono entrato, capito? Per cui lasciamo cantare, basta. Poi c'era uno che metteva la portante, faceva oh, chissà galera, era dolore. andiamo, evidentemente gli faceva male a che cosa, allora era dolore, intanto mi intendevo qualcuna buona, chissà che no, che non arriviamo a volte pure noi da Edi a fare da propagazioni, ma vabbè. Ma chissà, magari noi ci saranno anche ascoltando, forse in qualche posto, però magari non entrano, capito? Come certe volte facciamo noi, noi non rispondiamo e ascoltiamo e basta. E così faranno anche loro, qualcuno, no? Capita queste cose anche. Andiamo bene, andiamo. Bah. Niente, muti. Andiamo bene, andiamo. No, noi andiamo sempre bene. Mai male, sempre bene. Meglio andare sempre bene, mai male. Era un telefonino, guidando ancora un telefonino. Non si è avvisato di nulla. Vabbè, allora si vede che 15 anni di cose, ma un telefonino che ha causato l'incidente. Sia fuori contravvenzione, cazzo, se uno si ferma, se una guardia si ferma, io non mi do la strada qualsiasi. E fotografeggia, alza che anticati contravvenzione dove c'è di morire. Non ha idea, non vi penserebbero a Ricciolo, però da che sono i pasticci, allora tienili. Sì, buoni, sì, Giovanni, certo. Sono, se ti trovano con il telefono, sono 1500 euro di multa. Ma non vi penserete, ma poi si muove la pigni, capito? Se non faccio più, tanto, mi sembra che li blocchino la patente pure. Sì, infatti dopo che hanno le biciclette che non era vero, che è troppo alta la multa. A peggio mai, vengono le tombe di voce, ve ne uno. C'era una signorina era. C'era con un telefono, ha detto di mollare un telefono che non doveva immaginare come si dà idea a camminare. Non da va, ho telefono andando. Allora uno è passato quasi la gente vicino alla macchina, che era già passato, è passato quasi la gente, si è assurtata e si è uscita a Parurò, si è uscita. Infatti poi perché per il telefono succedono vari incidenti. per cui magari c'è un ostacolo davanti, magari non si fa in tempo a chi segue un telefonino, capito? E poi basta, no? Cazzo, che abusola e squilla il telefono, se cammina, tutti dimmi, truba, dritto, da se abusola, a c'è più punto, da poi chiedo a e poi risponde, se no tutti dimmi, che da voi sono dolori. Incidente mio, se c'è due ore da andare a scarpata, ha fatto un volo di 20 metri. Tutti giovani. Si giovani oggi, chi la messa lì, stiamo duvetti, certo, o se no chi si cambierà il motto, ogni tanto io che ne basta qualcuno, ma io lo so come fanno questa, a tutta dire ragazza, ma che domani non pensa di messo un animale, cazzo, e ti ricordi in terra e ti vuole la vita, cazzo. Sì, non pensa a nulla, no, pensa ad accelerare e basta. Pensano ad accelerare a fuochi e basta, non mi interessa nulla che amici che hanno amici, peggio baedi, ti dirigi, e andare e andare. Aspetta Marino, chissà cosa prende Marino, a che ora? Intende che tu di pure Gian Marino. Ma intendi? Già intendo, era già di cosa, ma noi contro di noi la via. Ah boh, una vera se arriviamo un po' se gli hai detto il bemmo. Dire che si dà piano vecchio. Andiamo. Ah, siete che venuti giù, attenzione all'amico, già ti ascoltiamo ma non possiamo farti entrare. Qualsiasi locale, io siamo facendo qualsiasi locale, non ce l'ha compresa. Sì, ci hanno dato il canale di darsi. Ma, oia, per carettato. Ma la propagazione è buona, per cui ci sentono dappertutto, dappertutto ci sentono, va? Vabbè. Come sentiamo noi sentono anche loro. Anda. Ehi, un secondo. Sono qua. Attenzione signor Marchisio. Eccoci qua. Sì, siamo qua, Giomari. Ho fatto una chiamata a Marchisio, ma non risponde nessuno. Allora Marchisio è da fare di oggi pure. Marchi! Ha detto che entrava anche se entrava. Eventualmente magari. Non si è trattenuto in campagna. Sì, vabbè. Signor Marino, non si sa, ma è anche per diventare nuda, entra in spiaggia. Certo, noi sembriamo che si può entrare, la porta è aperta, No, là, era da casa, ma noi l'abbiamo vista, così che a mai zeretti, Sì, supermercati allagati, di che d'altro, andiamo, siamo in giugno, fine giugno quasi. Queste ore chi ti sarà mangiando di fragoli nell'orto botanico, chi sa che vuoi dare un baracchino, Sì, di fragoli va, ma vabbè di fragoli, di più, chi ne dirà che non andano più di fragoli, va? Se sono piantate da loro può darci pure che ci siano ancora, hai capito? Esistono ancora le fragole, per cui, e poi l'orto portare così di loro è speciale, metti anche quelle fragole quanto il pugno. Sì, forse speciale anche voi, ma adesso con il caldo non fa neanche se si sciogliono subito, si sciogliono, si godono subito non si viene più. Per andare bene forse nel così. Come c'è Marchisio riescono ad andare, ma no, più di tanto perché vi troppo gatto. Allora fare un gugumaru graziano. Allora fare un gugumaru. Sì, tu che gugumaru, Andiamo, niente. Ma perché papà domani, Oh, acqua adesso. Sì, a parte il caglia ha appunto temporale, e non che ha appunto Eva. Uno scruccio d'Eva. Ehi, vabbè. Lasciamolo fare, tu. Io ho fatto il video. A farsi cagliere. È un bel spesso che prendeva, se è finito. Ogni tanto, temporale, a macchia dritta. No, perché no, i no che nulla. Cosa vuoi fare? E muoci e tutto canto. A palle va, qua senza la brurale Molinca, e anche gli altri tipi di susine, la guaccia, come se si dice, vabbè, tutta guaccia era brurale Molinca a caldo, boh. E ne va se palleva, capito? Che ha fatto un bel tema, e per cui la tutta guacciata. O che c'ha, non male che... Oh, io mi lancio un po' bucciando, Per cui allo si guascia che c'ha. Vabbè, non piano, quel po' che c'è, almeno che cresca bene. Ma se a quella barra cocco, ma i ribunti, che fa arriva i ribunti? Più acido. Poi, no, saranno. Allora, qui ci metto su terra e fa di concime. Faccio, che non è gaggio, fa di concime e vado, e basta. Sì, vabbè, andiamo così. Attento, signor Bacchisi, io cambio a una gara, no? Una gara. Marino, la mazza si goza. Chi c'è sempre da parado. È sempre sotto all'Aibur, usa per il medico dell'Aibur. Una volta in faccia c'è sotto all'Aibur una zappa. Sì, vabbè. No, ma non entrare se vuoi in Anigana. Oh, Marco oggi, Marco è già, già franco. Evidentemente sono già in zapparati. Poi il muro sente su più, Lascia dire tante cose, cosa è successo? Lascia dire, la famiglia di Cuttego. Ah io ieri sera l'ho sentito, è entrato prima la sera. E poi alle 8 pochi minuti l'ho mollato. Mi sembra di averlo sentito, lui di sfuggita, stava parlando con te, e tante cose, ma non ci ho preso nulla. Esiste che fosse per Marino. Attenzione Marino, ascoltarti a t'ascolto, ma a cosa di QRM proprio, Sì, a livello di QRM proprio, Ma te mai, ma l'antenna è nata di ributta. Il segnale sempre a livello QRM. Buonasera a me. Se 5-6, 5-6 di segnale, non di più, molto basso, evidentemente, dovrai messa in cantina l'antenna. Eia. Sì. Ascoltarti io ti ascoltiamo, però come c'è cioè, a livello di cose, di QRM proprio. E andava da ripriglia della. Ma chi se mi pare che ancora dentro le serre. Avvio. Per abbronzarsi, sempre al fresco. Sì, già. Se vuoi entrare già seminoghi. E la voglia. A posto è tutto a posto, piano piano si va avanti. È più forte di tu in propagazione che tu. Ho preso John Marino. Ok. A momento mi arriva a basso però, A momento lo copio bene, a momento lo copio basso a Marino. E non si riesce a capirle. Ma non l'hai sollevata bene la tenda, o ancora sullo stesso livello di prima? Sì, vabbè, piano piano te la sposti e poi la rimetti bene, perché c'è a coso, così almeno ti sentiamo più bene. Va bene, così è, attento signor Bacchisio è da parato. Cazzo, ho soccorso il pisile come dice Graziano, o sta aggiungendo ancora il filo? No, certo che già aggiustato tutto quanto, non deve uscire forte adesso. La via Goccio del Rosmetro che era, che ce l'hai ballato. Ah, che veramente, cazzo, allora è troppo potente. A ballare il Rosmetro vuol dire che è troppo potente, cazzo. Sì, giovani, deve essere che era il Rosmetro che non andava più e si era bloccato sopra un ruio. Vabbè. Si trova un Rosmetro, se vuole misurarle. La voglia un Rosmetro, si trova uno. Che è carino fare un Rosmetro. Ma già ce l'ha, ne ha la voglia. Gliel'ha messo, è tutto a posto. Dove ci si è attrezzato, il burro penso. Dove si è attrezzato anche bene pure lui. Vediamo un po', aspettiamo allora. Altri 5 minuti dopo chiudo 8. Perché dopo incomincia la partita. E sai com'è? Se parlo entro qua io, capito? No, già ho capito, sì. Vabbè, facciamo 5 minuti. E lui. Vai demo. Ehi, infatti. Tanto visto che molta gente si è ritirata e per cui ci ritiriamo un po' noi. Un po' però, non molto. Carabinieri sono a Iglesia, sul giuramento. A Iglesia? Sì. Non so quanto sono giurendi. Ah no, noi stiamo guardando canale 1. Stiamo guardando. Vabbè, a se girare. Rai 3 sto guardando io, telegiornale sardo della Sardegna. Ah, alle 7:30 inizia. Fatto. Io sto guardando quello, mi sta dando tutto. No, hanno suonato, dai, io mi assento, dai. Eventualmente ti salutato se non entro, ok? Ok, ciao Gian Mario, ci sentiamo. Ok, saluta a Marino, si entra a Bacchisio, dai, a domani, ciao. Sì, ok, ciao Gian Mario. Non è sia Marino. C'è un casotto di detenzione, no? No, come segnale c'è sempre lo stesso, 6, 7 il massimo. La radio che non mi piace. La radio non ti piace? Aspetta, sì. La radio non mi piace. Dimmi come adesso. A volte arrivi forte di radio, a volte ti abbassi tutto in una volta. 1, 2, 3, prova radio. Sto grande. Va bene adesso, sottotitoli. Prova. Chi è prova? Ciao, sono Fabrizio, sto abbassando la potenza. No, aspetta, ecco. Mi serve un controllino di radio per vedere se sta uscendo. Ciao Gian Maria. Gian Maria ha chiuso. Sono per Radio 5, un pochettino buona. Segnale 6-7, non di più. Aspetta. Ascolta, mi serve sapere se la radio sta uscendo, se ti sembra distorta o in che condizioni, come la senti? Grazie. È un po' gracchiante come radio, è un po' gracchiante. Comunque, stai uscendo, però è un po' gracchiante la radio. Cosa intendi? Aspetta un attimino, provo a aumentare, così va un po' meglio? No, aumenta appena ancora. Così va un po' meglio, 1, 2, 3, prova? Adesso è migliore, adesso è più forte anche. Ecco, guarda adesso, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, come ti sembra? Adesso sei uscito distorto proprio. Perché c'è il mickey che entro, sto facendo una regolazione. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Adesso è buona, buonissima. Va bene, dai, no, era una prova che stavo facendo, una modifica su una radio, e quindi volevo vedere se stava uscendo. Tutto qua. 1, 2, 3, prova radio. L'importante è che non abbia picchi di modulazione, sale, scende, poi è da regolare. No, adesso è perfetta, la radio 5 è perfetta. Va bene, aspetta, vediamo le stazionarie. Vabbè, quella è l'antenna, ormai è andata. Ok, queste sono i vapisi. va bene, e queste le leggi. Ciao, ma sei rimasto solo, Gio Maria quindi ha chiuso. Sì, stavo parlando con Marino che è più basso di te, in mezzo al QRM, però non so se c'è ancora, aspetta a vedere se c'è ancora Marino. Ci sono, ciao amico, ciao. Qui a Vigilio, andate bene, come va, va bene, vi ringrazio tutti e due, sta andando, ok, dai, corretti da parte mia. Ok, ciao Fabrizio. Ciao, ciao, chi è? Ciao signor Marchisio. Ah, ciao, ciao, ciao, saluto tutti, era giusto che stavo provando una radio che stavo riparando, ciao a tutti, grazie. Ciao Fabrizio, senza signor Marchisio. Cazzo, ma chi la preparazione si sta coprendo, eh? Cioè la preparazione si sta coprendo, figurati. Sono passo io, ma la preparazione qui è un caos. E allora mi ci arrivi tu un po' che due volte di radio. Di radio, non di segnale, di radio. Sono di radio, così, il segnale è sempre basso. Non ho capito perché, mi ho dato le 10 stamattina. Sì, mi stai arrivando di radio. Aspetta, che guardo con l'altro. Mi sembra un po' strano, sì, sì. Stamattina era 9:10, a zona molto alta, figurati. Ma chi so, come ti sto arrivando io a te? Ma chi so? Marino! Avanti, sto! Uno, due, tre, prova, avanti! Ah, io sono il PC. Prova, uno, due, tre, prova. E tre, gli occhiali, sto. Ma qua mi arrivi 9, mi arrivi. Non dico mi arrivi in precisino. E sto adesso, ti rimasto un controllo 9:10, stamattina, la zona del catonante, il giorno 9:10, mi sarebbe basso. Ma chi c'è? È entrato? No, è salito su adesso. Ah, ok, va, sto attraverso. Si sta preparando, non vuole dire. Aspetta, ci rimani dentro baracchino, vedo l'emologato. Ehi, il PNR ce l'hai acceso? Sì che ce l'ho acceso. Guarda nel segnale che mi sono detto. Bacchi, dimmi, dimmi. Ce l'hai acceso? Ma ascolto bene, avanti Bacchi, mi danno un controllo. Avanti adesso, adesso guarda, avanti. Guarda in questo passaggio, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. 5, Santiago 9. Allora, bambino, va. Allora va bene, avanti un po'. Sì, va bene, dai. A me mi giustamente dico. Ehi, vami, fa domani. Chiedi via, papà domani. Ma è una fia. Ehi, c'è sto un po' di più, ma non so. Sto arrivando basso io. Di radio, di radio. Stai arrivando a voce bassa, vedi? Sì, forse la voce bassa, guarda adesso a vedere. Ok, avanti, sto... Ma chi? Fa una cosa, il PNR vicino ce l'hai? Sono giù, l'ho portato su. Ehi, vabbè, la prossima volta, va, chiamato sul dottore, dai. E comunque va bene, su quel temino... Su quel temino va bene. Bene, avanti, sto. Io chiudo che mi sta chiamando la signora. Ci sentiamo, Bacchi. A domani, forse. Ok, ciao Marino, ciao Bacchi, che ti devi vedere tutti e due. Ok, ciao Toto, avanti Bacchi. Ciao Tole, buona serata, torno la signora, a domani, tutto coincide. Vanga bene nera. Ehi, grazie, da mezz'ora sono nella garage, vengo tu a chiacchierare che non ci andava mai. Ehi, vabbè, 10 minuti. Avevo cominciato a parlare, volevo dire l'altro. Ehi, ma che io tutto piazzato, ma... Guarda, vado nel un'estate nella piazza dall'altra parte, perché non mi piace la vomessa, capito? È brutta la mettetica, mi rovina la veranda, capito da qui? Cioè, sei tutto piazzato, guarda, dopo ti mando la foto su un'estate, ho dato la foto e te la mando. Però sai che mi è brutto come estetica questi tutti qua, capito? Dove la piazza, certo di vedere, dove la piazza? La posso piazzare dove c'è, in te la televisione, io so, faccio le staffe, compro le staffe allungate di quelli che si allungano e le attacco le staffe dell'interno della televisione, no? Che sono belle, sono murate le staffe. E da lì mi piace tutto qua, guarda, è brutto come estetica, non c'è nulla da fare. L'idea era utile, è utile l'idea. Comunque l'antenna l'ho messa sopra la veranda, non mi dà fastidio, tutto ok, solo che quel tubo, quel coso è brutto, brutto. Come estetica, e poi si vede perché davanti alla veranda, e non puoi piazzare giù, si abbassi un po' lo piazzi se becchi qua il staff e mi ha detto quello che ho detto il programma. Il staff è andato, in effetti sono andato, ho chiesto e mi ha detto che stavo rifando. Se è piatto, quel staff è andato, è piatto, lo faccio l'antenna della televisione, capito? E se vedo mi dà nessun fastidio, vado benissimo, mi piatto due venti sorpresi, mi piatto un po' fatto. E sono a posto. Il tumo si è? È nuovo il tumo, è il tumo nuovo, vuole stare. Le staffe sono quelle tipo quelle che usa l'Ender per i pali della luce, diciamo, quelle apparenze, sono delle staffe, l'avevo prese da ore grandi, quindi sono delle robuste. Quelle tipo elettricista sono. Fanno AU, sono AU sono fatte. Sì. Però l'unica cosa, ecco come ho detto, l'unica cosa faccio, mi riprendo il tubo da planta, ce l'ho, sono zingato già qualcosa, mi prendo un altro che vale 10,40 no? E sono 2,4 e mi metto anche nel sotto, perché se piace col tubo che ho adesso risulta troppo pesante, capito? Il tubo è più pesante, sì. Quindi comprare quei tubi zingati leggeri. Esatto, già uno ce l'ho. Perché un altro che è di dentro e così via, e poi dentro il certo intendo. Capito? Tanto basta, non lo fai che riesci per il tempo, capisco, non devo fare molte cose, capisco. Mi ho dato il segnale, il controllo con il termino che mi ha dato tu, no? E va benissimo, va bene. Sì, sei sistemato, va. Sei sistemato, Maria. Sì, è lui che la posso ascoltare, sta, faccio per voi. In settimana, non ci devo riuscire tardi, ma che di fatto, vediamo che sono rifatte, poi sta. Uno che sono rifatte, cazzo tutto attaccato e ciccia. Ormai quelle staffe che avevo già murato lascio stare, metto solo il tubo e basta. Quelle staffe mi posso servire qualche altra cosa domani. Perché vedo che non è semplice tutto qua, perciò davanti alla veranda tutto come vedetta, tutto qui avanti. Capito, e qui di fronte alla porta non esce proprio, si vede prima scritto. Esatto, non ho più bisogno già da bene, adesso. Fino a quando non arriva come staffe non so più nulla, già da bene. Una volta arriva come staffe e poi non so più. Così, avanti. Poi il capo ti arriva? Sì, arriva tutto. Allora sei a posto. Allora sei a cavallo. Sì, anzi, se lo metto lo metto dicendo. Il capo mi arriva tutto, lo arriva. Ma il capo è scusando adesso quello che mi ha dato tu e io ne ho provato di quello grosso, che con casa ne ha provato per 3-4 minuti, più guarda. Allora va benissimo. Come se lì avevo provato la parte. Sì, e si aggira di quel capo, siccome è stato aggiunto con la nota. E si aggira di tocca a usare solo il tuo stato del capo, che dovrebbe arrivare. Sì. Va bene, se in quel paolo ci metti il PMR e la 27. Sì, per me sì, quella assieme sì, c'è la commissione. L'unico paolo si esce di quel sistema, se si va di quelle staffe, e si va anche a tutti i principi, non so chi cosa va. E non mi piace, non mi piace tutto. Ho bisogno di una cosa, ma non mi piace tutto. Avanti. Sì, va bene. Dai Marino, io ho rimasto parola del merendero per me, devo prendere le medicine, sono le 8. Devo lasciare. Ci sentiamo magari più tardi oppure domani. Stammi bene, sono il cuore familiare e ci sentiamo domani Marino. Ho fatto vedere come vuoi tu. Ok, ciao Marino, buona serata. Io ti ciao a chi. Ciao ciao.